Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parla di Lismitalise, che non è una medicina ma è un fumetto. Lismitalise, ovvero il pessimismo della ragione, l'ottimismo della muffa, curato da Alessandro Lise e Alberto Talami, che dopo Jungle Justice si danno questa autoproduzione corposa, e quindi non poteva sfuggire a Morena Moretti i suoi microfoni un'intervista con i due ragazzi. Se l'intervista vi sembrerà un paradosso, beh, allora aspettatevi di tutto dal fumetto. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, la voce a Alessandro Lise e Alberto Talami. Alessandro Lise e Alberto Talami hanno prodotto un nuovo libro che si chiama Lismitalise, anche un sottotitolo abbastanza interessante, che è Il pessimismo della ragione e l'ottimismo della muffa. Ma è un fumetto che loro dicono di chi ha deciso di non fare più fumetti, quindi forse anche questo non è un fumetto, e intanto ve lo chiedo: siamo di fronte a un fumetto con Lismitalise? Beh, siamo di fronte a un oggetto non del tutto identificato che usa anche il fumetto in maniera, come dire, massiccia, di accumulo, per creare un senso di caos e di confusione. Bene, e nel titolo c'è anche un anagramma, i vostri due nomi, ma poi io leggo anche una parola che mi è saltata subito all'occhio, che è limita. Questo limita lo vedo solo io o lo avete pensato? No, devo dire la verità, non ci avevamo pensato. Noi siamo partiti dal gioco dell'anagramma e, diciamo, questo è l'ultimo, il volume conclusivo, insomma, basta. Al momento insomma, ci fermiamo qua. Insomma, abbiamo fatto questo patto con i lettori, basta. L'ultimo sarà molto grosso e basta così. Quindi questo sì. Sarebbe il vostro ultimo libro, questo è quello che state No. Beh, abbiamo fatto una serie di autoproduzioni. Il primo si chiama Listalamise, il secondo Zislatamise, il terzo Lismitalise. La nostra intenzione all'inizio era di fare vari numeri con diversi anagrammi fino a sovvertire nome e cognome, i due cognomi, quindi arrivare a una cosa tipo Talamilase o qualcosa del genere. È proprio un gioco stupido che ci siamo messi con i lettori, per anche sempre nell'ottica di confondere le idee. E solo che, arrivati a questo punto, questo numero così grosso che prende 3 anni, 4 anni di storie, che è venuto di 500 pagine, ci ha un po' fiaccati e abbiamo detto: forse questo è quello che volevamo dire con questa serie e ci fermiamo qui. Bene, e come continuerete? Perché allora, questa è un'autoproduzione, quindi avete scelto di produrlo in proprio, autopubblicarvi. E avete, che cosa pensate per la vostra storia futura di coppia a questo punto? Perché in questo libro trovo che ci sia proprio questo lavoro di coppia molto molto stretto, e forse anche qualcosa di autobiografico, si può dire? Beh, sì, sicuramente. Alberto. Sicuramente, sì, cioè, nei nostri fumetti c'è sempre, insomma, qualcosetta di autobiografico, abbastanza ben nascosto, però, insomma, sì, partiamo spesso, ecco, da cose del genere. Alberto, io vedo molte esperienze in questo caso, per esempio c'è l'orto, c'è la maturità a scuola, che ne so, c'è altre cose, che comunque anche questo rapporto con la natura, gli alberi malati, trovo che ci sia comunque una esperienza di vita in questo. Sì, sì, sicuramente, diciamo, di solito sono gli spunti sui quali, con i quali parto, diciamo. E, diciamo, sì, alle volte, diciamo, uso così osservazioni di quello che mi circonda per partire con la storia. Alle volte proprio mi autoimpongo di fare qualcosa assolutamente fuori dai canoni, per, come dire, per sorprendere, diciamo, il lettore e alle volte anche per mettere Lisa in difficoltà, insomma, con delle storie che penso lui avrebbe assolutamente cercato di evitare. Però direi che Lisa se la cava anche molto bene a scrivere. Esatto, Lise riesce sempre a rigirarmi la frittata e alla fine mi trovo qualcosa che non avevo assolutamente pensato, ma diciamo sono sempre alla fine contento, insomma. Allora, io ho trovato questo libro molto interessante, anche divertente, ma anche angosciante. L'idea che qui dentro ci sia molto anche dei sentimenti che oggi proviamo rispetto a tante situazioni, tipo appunto la possibilità della bomba, il problema dell'ambiente, cioè c'è tanto di questo e anche tanto, soprattutto nei disegni c'è una sorta di mondo quasi malato, aggressivo, in fin di vita. Non so se queste cose le avete pensate o nascono così, ed è una percezione che ho avuto e vorrei capire se mi potete confortare in questo. Ma io penso che ci sia sì un lato di quel tipo là. Adesso devo un attimo, come dire, fare un punto su come è nato questo libro, il metodo di lavoro, perché altrimenti non si capisce tanto come funziona. Noi lavoriamo in coppia da tanto tempo, io scrivo i testi, Alberto fa i disegni e questo qui è pacifico, però ci sono dei libri che partono dalle istanze di Alberto e dei libri che partono dalle mie istanze. Questo qui, mentre io facevo altro, Alberto ha cominciato a disegnare questi fumetti qua, quasi tutti, tranne due o tre storie che invece vengono da me. E quindi partono da tutta una sua esigenza anche di sfogo e di desiderio di far uscire, direi, adesso poi mi confermerà anche Alberto, insomma, tutta una serie di stimoli che gli partono dall'osservazione della natura, dall'osservazione del suo mondo che è ben definito, molto ben definito e che è sempre un passo, no, dalla morte, cioè sempre un passo dal terminare o comunque dall'ammalarsi. Ci sono, sì, sono temi ricorrenti che partono comunque da delle ossessioni, da delle, insomma, anche degli esorcismi. Sì. Sì, Roberto, diciamo, cosa dice? Ha rappresentato bene? Sì, diciamo che sono d'accordo. Inizialmente, ecco, la mia idea era di metterci quanta più morte, quanti più teschi possibile per fare, diciamo, un record all'interno del fumetto, ecco. Nel primo volumetto li avevo anche contati i teschi, mi sembra che fossero tipo 250, insomma, in tipo 60-70 pagine, che era veramente un record. Negli altri, insomma, ho creato ad esempio un pattern con dei teschi, per cui quando lo uso ci sono un miliardo di teschi, insomma. Sì, diciamo, l'idea forse dell'esorcismo, ecco, anche sì, ci sta, insomma, e in qualche maniera anche prendersi un po' gioco anche della morte, insomma. Io sono stato tipo almeno 3-4 volte abbastanza vicino, diciamo, in una situazione un po' così pericolosa, diciamo, per cui ecco, mi porto avanti questo pensiero e mi piace in qualche maniera anche scherzarci, insomma, e condividere la cosa. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti, lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Alessandro Lise e Alberto Talami. Allora, questo libro ci sono dei capitoli, diciamo, titolati, ma comunque è abbastanza spaesante per un lettore. E io ho provato con la mia amica che l'ha aperto, ha detto, ma io non so neanche, non lo capisco, non so leggerlo. E questo forse è un libro è proprio per pochi, forse per pochi intimi. Mi hanno fatto questa domanda di recente e non ho saputo rispondere, poi quindi ci ho ripensato. Io sospetto che noi lavoriamo soprattutto per chi fa fumetti, cioè per chi come noi ha questo spallino molto preciso e molto definito del fumetto e di questo linguaggio, per cui leggiamo continuamente fumetti, ne leggiamo di tutti i tipi e ci piace portare avanti il discorso e andare un pochino più in là se possibile, con il rischio di diventare illeggibili, su questo non c'è dubbio, però ecco, secondo me ci dirigiamo in quella direzione lì. Infatti i nostri lettori li conosciamo tutti e sono quasi tutti degli sballinati di fumetto come noi. La vedo come una sorta di avanguardia del fumetto in questo momento, perché questo tipo di scrittura e disegno che fate voi è veramente, se non rara, se non sì, forse addirittura unica, per cui il modo di approccio non può essere quello consueto della, appunto, della lettura, cui si legge tavola per tavola, scritta per scritta, ma deve essere comunque approcciato in un altro modo anche. Vi sentite un po' in avanguardia, Alberto? Ma no, io ci vedo come due che fanno delle cose per delle esigenze loro principalmente. Dell'avanguardia francamente non mi interessa nulla. L'avanguardia, cioè, se avanguardia significa fare un fumetto così che viene prodotto in 100 copie così, boh, non ne parlerei quasi neanche, forse, non lo so. Vedremo, questa è la risposta, ce la darà il futuro. Comunque voi non ne fate una grande pubblicità, perché leggo anche da quello che avete scritto sui vostri social che con queste schegge sparpagliate create un ritmo con lo scopo principale di fuorviare il lettore, fargli perdere l'orientamento. Parlate anche anche di illustrazioni di dubbio gusto, fotomontaggi brutti, che sembra forse quasi un'operazione di marketing, così come la raccontate, cioè non leggetelo, quindi spingete molto sul non leggetelo, magari per farlo leggere. Ma io devo dirti la verità, alle volte mi sento veramente imbarazzato, nel senso anche l'ho regalato a mio fratello e francamente non so quanto gli possa piacere, insomma, per cui a mia madre ho detto guarda, se hai voglia leggilo, ma anche no, ecco, io almeno la vivo un po' così. Insomma, mettete le mani avanti, e questo è proprio il punto. Sicuramente mettiamo le mani avanti, ma poi anche, siccome facciamo così poche copie, almeno quantomeno per me, è importante che ci siano i lettori giusti. Cioè, non ho nessuna voglia di dare un libro, di vendere uno di questi libri a qualcuno che so che non lo apprezzerà o che si troverà spiazzato, spaesato. Insomma, siccome sono così pochi, preferisco regalare il PDF e dire guardatelo e decidi se fa per te oppure no, perché è un attimo che il lettore sia quello sbagliato. Comunque no, sicuramente non è un'operazione commerciale, ovviamente. L'altra cosa che scrivete nella seconda di copertina è dedicato a tutti gli autori di graphic novel, quindi come uno stimolo per loro? E diciamo anche come provocazione, questa esigenza di spaesamento così è una cosa che ad esempio spero di trovare, spero un libro che mi porti in posti dove assolutamente non mi aspetto e magari di sentirmi anche una sensazione, non dico di disagio, ma comunque è una cosa un po' straniante. L'idea anche di fare un libro del genere è che è anche appunto per rispondere a questa esigenza nostra di lettori. Proprio una polemica un po' gratuita, anche un po' sciocca. In un mondo dove il graphic novel è nel fumetto ormai il modo giusto per fare fumetti, dove è tutto perfettino, lo storytelling è perfetto, e tutto viene seguito, il lettore deve poi essere portato per mano a seguire una storia, noi andiamo in un'altra direzione e facciamo fumetto, non graphic novel. Alberto, ti volevo chiedere, come lavori? Ah, io lavoro in A4. Con matita, pennarelli, alle volte, cioè diciamo che in particolare appunto l'Istalamise è una specie, appunto la definiamo una specie di palestra, e alle volte mi trovo a non sentire l'esigenza magari di ripassare con il pennarello e lascio le tavole direttamente a matita, oppure alle volte non faccio neanche proprio disegni, ma disegno praticamente con il mouse direttamente. E mi piaceva l'idea di poter scegliere a seconda delle storie dei stili un po' diversi, insomma, assolutamente liberi. C'è una storia in particolare che mi sembra sia fatta solo con i retini, praticamente, senza disegni proprio, cioè insomma solo retini. Mi sembrava stimolante anche portare avanti questo discorso di libertà all'interno delle nostre storie. Libero, voglio vivere come rondine che non vuol tornare al nido. Libero, voglio andarmene libero, non cercatemi e i ricordi gettarli in fondo al mare. Corre la vela mia, corre per il suo mare, chi la può mai fermare? Naviga, naviga, naviga, naviga, scivola, scivola, scivola, col vento va verso la libertà. Libero, voglio vivere, è fantastico, incredibile. Libero, sono libero. Alessandro Lise e Alberto Talami. Poi in queste storie comunque ci sono in particolare due personaggi, Codroipo e Tamigi, che sono quasi sempre presenti. Io ho pensato che vi assomigliano anche, c'è questa sorta di amicizia, di legame, di scontro. Sì, sì, assolutamente, anche un modo per gestirci, però diciamo fondamentalmente sono intercambiabili. Sì. Alle volte diciamo uno sono più io, una volta è più Alessandro, cioè non è detto che Tamigi sia io o Alessandro Codroipo, ecco, alle volte ci scambiamo. Alessandro, invece avete messo anche un piccolo librino molto carino della Rata Corrige, che però appunto è difficile da utilizzare. Allora, quando abbiamo pubblicato il libro, io sono il redattore principale di questo duo, per cui impagino io e faccio la correzione bozze, poi lo diamo ad amici anche che lo leggono, ma questo qui era un testo molto difficile da correggere per 500 pagine, e poi una volta pubblicato naturalmente su carta rivedi tutti gli errori, mi sono rimasto spaesato e un po' annichilito. Noi volevamo fare due piccoli albetti dentro, quindi due racconti dovevano essere, con le immagini residue di Alberto, e ne abbiamo fatto uno che era un racconto, e poi ci è venuto in mente comunque di segnalare gli errori per dire guardate che ce ne rendiamo conto, ci sono, se li volete, se li trovate, guardate se sono quelli che abbiamo trovato anche noi, così poi insomma vi allenate voi e noi siamo più tranquilli che vi abbiamo dato un libro completo. Faccio un'altra domanda sulla famosa industria del fumetto, che non è un'industria. Esatto, anche lì un pezzo un po' scherzoso dove si elencano varie industrie e si finisce con l'industria del fumetto, perché c'è questa ennesima polemica ogni volta tra fumettisti che non vengono pagati, vengono pagati poco, un discorso sul fatto che non si vive di fumetto e che di fumetto si dovrebbe vivere, però il fatto è che tutti quanti agiscono come se il fumetto fosse un'industria, fosse una cosa grossa e avesse i soldi da gestire, ma invece non è così, è un mondo molto piccolo, molto di nicchia, dove ci sono pochi soldi che girano e tanti autori. Alberto, dentro questo libro c'è anche un fogliettino di carta originale, saranno probabilmente, ogni libro ne avrà uno, perché è un ritaglio di un foglio dove c'erano sicuramente più, chiamiamole, vignette. A me è capitato quando viene data una lattina dove dentro ci sono degli insetti da mangiare, Tamigi direi. Sì, e quindi questo è un omaggio. È un omaggio, è una parte degli originali del libro che io taglio e metto dentro per i lettori. Mi sembra una cosa carina, ecco, molto anche carina, infatti un'aggiunta, insomma. Io non amo ad esempio le dediche, preferisco fare così, ecco, mi sembra un valore un po' aggiunto, cioè una cosa simpatica. Alle volte mi è capitato anche a me, insomma, con autori soprattutto stranieri, così ho deciso di rilanciare insomma questa bella usanza, anche perché così ogni copia è unica, diventa una cosa preziosa. Alessandro, chiedo un'ultima cosa sull'editoria: voi avete difficoltà a editare con le edizioni che pubblicano fumetti? Come funziona questo mondo per voi che siete a contatto e che avete scelto l'autoproduzione? Adesso come adesso per noi non è così complicato pubblicare i libri, se sono i libri giusti naturalmente, pensati per quella casa editrice lì. Ogni tanto ci chiedono di preparare qualcosa per loro, non è un percorso chiuso, diciamo così, è un percorso chiuso per tutta una serie di esigenze di espressione, di narrazione che non sono vendibili. Come hai detto anche bene tu, questo libro è di ultra nicchia e un editore normale non avrebbe mai potuto produrlo perché ne avrebbe vendute 100 copie e questo non è profittevole, diciamo. Quindi per noi l'autoproduzione è la necessità e la valvola di sfogo in cui mettiamo dei progetti che non ci servono per promuoverci, ma ci servono per esprimerci. Aria, aria, che scivola nell'aria. Come un temporale, anche se tardi non andare. Rubo le ore e l'ulupen per un'ora d'amore. Non so cosa darà il sole, sta tramontando, non so dove. No, no, no, no, non dire no. Cosa mi fai fare, io non lo so. 5 minuti ed è già stasera, sì, ancora un po'. Nuovo tatuaggio sulla schiena, fammi sentire leggera. Leggera come aria, aria, che scivola nell'aria, aria, aria, sono come aria, aria, qui si nuota ma nell'aria, aria, aria, spero che non sia un'allucinazione, perché davvero.